In un mondo come quello di oggi non si sa più cosa scegliere. La massaia che vuole comprare un detersivo non sa bene quale acquistare perché ogni casa produttrice asserisce che il proprio prodotto è il migliore. Anche un uomo che ha bisogno di un rasoio ha moltissime incertezze, poiché ogni ditta loda il proprio articolo. Abbiamo sempre giustificatissimi dubbi che la televisione, la radio, i cartelli pubblicitari contribuiscono ad alimentare. Purtroppo il dubbio sorge immancabilmente anche nel campo spirituale. L'uomo che è nato e cresciuto in una religione prima o poi si rende conto che tante altre persone credono diversamente da lui. Non ci è religione che, moralmente parlando, sia completamente sbagliata e, se vogliamo essere onesti, non possiamo ignorarle del tutto. A questo punto sorge il problema. La mia religione è quella vera? La fede che professo è quella giusta? Perché la mia è giusta e quella degli altri è sbagliata? Questo problema sorge e sorgerà finché l'uomo, lasciato ogni preconcetto, non farà partire la propria ricerca dall'origine della conoscenza di Dio. Quale Dio? Si chiederà subito. Domanda più che lecita perché ogni religioso invoca la sua divinità. Anche il popolo ebraico ha sempre invocato la sua divinità, ma riguardo a questa ha affermato cose che nessun altro popolo ha mai proferito. Una di queste la troviamo nel Salmo 96. Poiché l'Eterno è grande e degno di somma lode, egli va temuto sopra tutti gli dèi, poiché tutti gli dèi delle nazioni sono idoli, ma l'Eterno ha fatto i cieli. Salmo 96, 4 a 5. Secondo la fede del popolo di Israele, chi ha fatto ogni cosa, compreso i cieli, è stato l'Eterno, una divinità che si è fatta vedere, sentire, toccare, che ha mangiato con gli uomini perché ha un corpo umano a tutti gli effetti. In seguito ha assunto una natura umana ed ha vissuto per 33 anni con gli uomini. Questa divinità ha ispirato gli uomini a scrivere dei libri in modo infallibile nella loro stesura originale, libri che ancora oggi possiamo leggere e meditare. Questi libri sostengono che la razza umana è stata creata dall'Eterno, fatta a sua immagine e somiglianza. Una simile fede non può passare inosservata. La si può ritenere una favola d'altri tempi, o si può pensare che chi la sostenga proferisca la più grande menzogna che esista. Ma al di là dell'opinione che uno se ne possa formare, se è vero che tutti gli dèi delle nazioni sono idoli, ma l'Eterno ha fatto i cieli, allora abbiamo un punto sicuro di partenza per rispondere al nostro interrogativo. Dunque, la divinità che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, la quale dà vita, il fiato ed ogni cosa, si è rivelata, cioè si è fatta conoscere agli uomini per mezzo del suo unico figliuolo, Gesù Cristo. Egli è venuto sulla terra per dire e per fare ciò che il Padre gli aveva comandato. Ma si sarebbe inevitabilmente confuso con i fondatori di tutte le altre religioni se la morte avesse potuto ritenerlo. Al terzo giorno, come egli aveva preannunciato, risuscitò dai morti. La sua risurrezione attesta che non è né un filosofo, né un riformatore, né un martire, ma che egli è veramente figlio di Dio. Ecco perché ciò che Gesù disse ha valore più di ogni altra parola umana, per quanto universale possa essere. A me piace pensare che se si vuole far credere una cosa, questa deve essere sì particolare ma credibile. Il cristianesimo, come ogni religione, ha le sue particolarità e per questo non sarebbe unico, ma la fede cristiana ha qualcosa di più. Ha un messaggio non credibile. Come non è credibile che una vergine rimanga incinta, così, molto di più, non è credibile che un morto risorga. Proprio per questo, nessuna religione propone che il suo fondatore sia risorto, perché sa molto bene che nessuno sarebbe disposto a crederci. Eppure, i cristiani, pur conoscendo l'assurdità del loro messaggio, hanno osato proporre al mondo il messaggio di Gesù risorto. Non solo. Per questo messaggio essi sono anche morti, soffrendo atroci sofferenze. Da un certo punto di vista, niente di particolare perché molti religiosi per la loro fede si sono sacrificati, ma gli apostoli avevano un altro particolare. Essi non avevano posto una fede cieca in ciò che gli era stato trasmesso, come fanno i credenti delle altre religioni, ma essi sono morti per la loro testimonianza. Essi sostenevano di aver visto Gesù Cristo risorto e testimoniavano che lui era il Figlio di Dio, il Re dei Re. Oggi una persona sana di mente e logica sa che un morto non può risuscitare, perciò non può porre fede nel cristianesimo, a meno che non creda che Gesù sia Dio. Se Cristo Gesù è Dio, allora anche la resurrezione ha senso. Anche in questo aspetto il cristianesimo è dunque unico. Ora, se il messaggio di Dio è unico, se Gesù è unico perché è Dio, allora ciò che egli ha detto è fatto. Uno scrivere è anch'esso unico e degno di essere preso seriamente sul serio. Dunque, il problematico interrogativo a quale religione credere è dunque risolto. Per questo motivo la Bibbia non è più un libro come tanti altri, ma è il libro nel quale si può conoscere la volontà di Dio. Essa è la parola di Dio. L'uomo che vorrà sapere con certezza se la sua fede è giusta, dovrà con sincerità cercare nella parola di Dio. Nell'Evangelo di Giovanni è scritto che alcuni uomini chiesero a Gesù: «Che dobbiamo fare per operare le opere di Dio?» E l'Evangelo ci dice che Gesù rispose: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che gli ha mandato». Così l'uomo non dovrà cercare nei riti religiosi un tentativo di interpretare la volontà di Dio, perché in tali tentativi verità ed errore si mescolano, dando luogo a forme sempre nuove. Sarà Dio stesso che opererà nel suo cuore affinché creda non in una religione umana, ma nell'opera che Cristo ha compiuta. Ma credere in Cristo in un'epoca come la nostra sembrerebbe una cosa fuori del tempo. Se la parola di Dio non dicesse certo, non è nulla sulla terra alcun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi mai. E altrove, Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Ecco perché tutti gli uomini di qualsiasi religione devono credere in Cristo, perché sono peccatori e di conseguenza condannati, perché soltanto per mezzo di Lui gli uomini possono essere salvati, perché soltanto chi crede in Lui ha vita eterna. Forse qualcuno potrà già pensare di credere in Cristo, ma la parola di Dio, proprio perché non vi siano errori, puntualizza dicendo che credere in Cristo significa accettare di essere perduto e incapace di contribuire in alcun modo alla propria salvezza, e credere che Cristo Gesù è morto in croce al nostro posto ricevendo la condanna del nostro peccato. Per accettare questa sentenza occorre vedere la propria situazione irreparabile di peccato davanti a Dio e rendersi conto che non vi è nessuna religione o qualsiasi altro mezzo umano che possa condurre in cielo. Perciò il problema non è a quale religione credere, ma se credo in Cristo oppure no. Non è mai scritto nella parola di Dio che un giorno saremo giudicati in base alla religione che abbiamo professato, ma che lo saremo per la nostra fede in Cristo o per il nostro rifiuto a credere in Lui. Parlando dello Spirito Santo, Gesù dice: «Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio». Quanto al peccato, perché non credono in me, Giovanni 16:9. Il peccato dell'uomo alla fine consiste nell'incredulità nei confronti di Cristo. Notiamo nei confronti di Cristo e non di Dio. La prova più evidente che una religione, come anche quella giusta degli ebrei, non può salvare è che molti degli stessi ebrei erano perduti. L'apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, rivolge un accorato appello: «Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per gli israeliti è che siano salvati». Romani 10:1. Paolo era ebreo e conosceva molto bene quelli della sua nazione, li amava profondamente al punto da dire: «Io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno». Romani 9:3-5. Nonostante questo lungo elenco di benefici ricevuti da Dio, gli israeliti Questo deve far riflettere coloro che appartengono ad una religione che si basa su dei principi cristiani, con dottrine, costumi, ispirati al Vangelo come il cattolicesimo romano, il protestantesimo e gli ortodossi, perché si erano perduti gli israeliti che avevano ricevuto direttamente dall'Eterno i comandamenti di Dio, cosa dire di religioni che nel corso dei secoli hanno abbracciato principi e costumi pagani? Cosa dire del cattolicesimo che adora e venera persone, che rivolge preghiere ai morti e a coloro che hanno reso santi i papi? Cosa dire del protestantesimo che non ritiene la parola di Dio come tale? Se gli israeliti sono perduti perché non credono in Cristo nonostante abbiano la giusta religione, cosa dire di chi ha una religione non perfettamente giusta? La religione non salva e non ha mai salvato nessuno. Gli ebrei al tempo di Gesù si vantavano di avere una religione millenaria, come oggi il cattolicesimo si vanta di avere 2000 anni di storia, ma sia gli ebrei che il cattolicesimo si vantano di cose inutili. Anzi, l'apostolo Paolo aveva da vantarsi di tante cose, ma scrisse ai credenti di Filippi: «Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo». Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Filippesi 3, 7 a 8. Dopo questa testimonianza possiamo dire che finché uno non rifiuta la propria religione come mezzo vanto di salvezza, non può essere salvato, cioè entrare nel regno dei cieli. Avere la religione giusta è buono, ma essa è solo la risposta all'amore per Dio. Diversamente, si trasforma in mezzo di condanna. Dunque, a quale religione credere? A nessuna. La fede deve essere posta unicamente in Cristo perché una religione si professa, e invece la fede riposta in Cristo Gesù, e solo in Lui, salva. Settembre 2004, Ellero. 3.